gioco, sto giocando un ruolo vitale nella lotta contro il capitale. Una bella mozione per fare l'occupazione, ma di idee io però non ne ho. Non importa se nessuno ci vuole, l'importante è occupare le scuole. Ciò che conta è sentirsi qualcuno, e da troppo non essere nessuno. E per farmi notare, io mi scrivo a parlare. Ciò che voglio però, non lo so. Voglio essere leader, voglio essere leader, voglio essere leader, voglio essere leader. Sarai quando tu parlerai per lottare e non solo per farti guardare. Se ti iscrivi a parlare, fallo solo per dire ciò che conti di fare per cambiare. Se ti iscrivi a parlare, fallo solo per dire ciò che conti.